Buongiorno, sono un ragazzo albanese, ci troviamo in oltre 80 persone dal reparto, dal 100? Oltre 100 persone qui nel parco maschile. Qua c'è un caldo e un schifo sia nell'igiene sia nel mangiare. Nonostante che noi ci troviamo qua per semplice cosa, per il fatto dei documenti cui passano i giorni, i mesi, anni, no, però nessuno ci ascolta la nostra voce, nonostante i documenti presentati, nonostante le nostre avvocati privati, uffici e robe varie. Però il più peggiore cosa è che qua sono entrato 80 kg, in giro di un mese ho perso oltre 11 kg. È reale dei fatti che ho fatto la misurazione nell'entrata, che sono spostato dal CIE di Bari, nel CIE di Roma. Qua è molto, ma molto brutto come posto. Soltanto abbiamo materassi che sono stati usati forse negli anni 60, le coperte, non li chiamiamo coperte, le lenzuole che sono di carta e vengono cambiate, lenzuole, no? Carta così, come si chiamano, ormai siamo peggio dei ragazzi che dormono sotto un ponte. C'è la violenza che quanti vengono a prendere per impatriare delle persone usano la forza fisica con le persone senza saperne la ragione, le motivazioni e lo stato di salute dell'essere umano. Sono molte cose a quale vorrei dire e trovo la fatica a mettere in fila tutte le nostre lamenti, le nostre sacrifici per sopravvivere. Sul fatto psicologico e sul fatto siamo proprio a zero, senza nessun sostegno. Grazie a voi e grazie alla vostra aiuto, vostra voce, che riusciamo a denunciare questo schifo, se mi permettete di dire, perché il mio italiano non è tanto perfetto. E in più, qua ci sono anche, come igiene, ci sono scarafaggi, ci sono dei vermi, dei serpentini piccolini, come si chiamano, quelli rossi lì, è un schifo. E mio amico qua è di presente che può anche lui parlare e dire il suo, che nonostante che è venuto, abbiamo parlato con il direttore, abbiamo parlato con la responsabile di vedere, loro dicono come minaccia, anche stai zitto, se sei bravo ti lasciamo, cerca di essere invisibile. Però queste cose io non ho paura di denunciare e ci ho tutto mostrato, le cose dei fatti, non ho paura di essere rimpatriato, nonostante che ho due figli nati in Italia, c'ho un fratello con cittadinanza italiana, non viene usufruito neanche l'articolo 19 che con la comunque c'è un ricorso dell'asilo politico, che ci sono anche molte altre cose documentate e non mi fa paura di far raccontare tutto il mondo intero che l'Italia non è il paese che accoglie i bisognosi o aiuta i bisognosi. L'Italia è diventato un meccanismo, una fabbrica dei soldi, dei magistrati, dei avvocati, dei tribunali, e soltanto per rubare i soldi all'Europa e il tempo a noi, se ne fregano della vita umana e di quello che facciamo noi più deboli. Io gli posso dire soltanto semplicemente al mangiare, noi non ci basta quello che ci danno da mangiare, chiediamo di mettere una macchinetta, di vendere qualcosa, di fare una spesa, di comprare con i soldi nostri, di riempire lo stomaco. Impossibile a fare la spesa, impossibile a far arrivare un pezzo di pane o una frutta o qualsiasi cosa. l'acqua lo danno senza il tappo, antigieniche, è caldo, già fa caldo, lo portano una volta a mezzogiorno, ti danno quelle due bottiglie che puoi, se no ti lo devi bere sul rubinetto, nonostante che a volte quell'acqua viene sporco. Il cibo lo portano scarso, è tutta roba che è già scaduta di un giorno o già sta per scadere. Da far schifo, con poche parole, da far schifo. È una roba impressionante. Ci sono dei flussi a quello che vengono dalle 6 di mattina, vengono in 7-8 poliziotti in mentre dormi, ti prendono, ti spaventato, anche se gli dici lavo la pace, no, ti portano via e poi mandano qualche amico di andare a prendere le tue robe magari che c'è dentro la cella. Lì come sei, mutante o senza calze, cosa ti portano con, come si dice, con la prepotenza e senza chiedere proprio darti il tempo di lavare la faccia o di riprendermi. Se uno è con il cuore può prendere un infarto, così come gli salgono sopra. È una cosa proprio, un modo di lavorare, come l'ho visto durante questi mesi di rimanenza nel CIE di Roma. A Bari io ho visto che è un po' diverso, è un po' meglio. Non voglio dire che è un posto così, però con ISIS ho visto su YouTube, ISIS fanno così le persone. Forse si stanno vendicando perché noi siamo di un'altra religione, o si vogliono, boh, non lo so a che scopo, nell'anno 2020 a centro del capitale d'Europa succedono queste cose. È un schifo con la mentalità italiana a quale molto, ma molto indietro confronto ad altri paesi a quale io personalmente ho girato. E posso dire che dal paese dove provengo io è molto più generoso nel confronto di loro. Quanti italiani sono nel spazio nel mondo? Ma se vengono trattati anche voi in questa maniera, voglio denunciare queste cose che succedono a Ponte Galera di Roma, al centro capitale di Roma. Non lo so chi gestisce questa baracca, però questo schifo nell'igiene, questo schifo nel mangiare, questo schifo di pressione psicologica. Sai cosa mi è successo 10 giorni fa? Ho fatto una richiesta di asilo politico, richiedo di poter, mi chiamano di avere di prendere una notifica. Andando a prendere questa notifica dentro il loro ufficio, entro dentro e gli dico di che si tratta. È una notifica di rigetto di asilo politico. Dico, ma scusa, ho due figli che sono nati in Italia e non è possibile di avere un po' di umanità nei nostri confronti. E il lavorante lì del giorno 21 di mattina, quel agente di servizio di turno mi fa, ma sei sicuro che sono i figli tuoi? Ma una cosa di genere mi ha fatto girare la testa, ho guardato i miei occhi, ma è vero che sta dicendo queste parole a me? E lui con prepotenza diceva, tu non devi stare qua. Ho detto, guarda, non ti permettere mai a dire questa parola, perché non me ne frega, quando si tratta di minori mi si chiudono gli occhi. Ma ha detto, vai, non ti do niente. E lui ha firmato a posto mio, come io forse non ho voluto prendere questo rigetto della notifica, dicendo e raccontando il fatto alla mia avvocatessa. Ma ha detto, torna e insisti di prendere questa notifica, di fare l'impugnazione di questo rigetto. Sono passati 5 giorni finché mi hanno dato per scrivere, devo leggere che io sottoscritto non volevo ritirare la notifica per giustificare il fatto, perché io ho chiamato 113, 112 e loro dicevano che a Ponte Galera ci sono dei colleghi e non possiamo intervenire noi. Però mi sono sentito veramente qua che nel Ponte Galera di Roma, nel capitale d'Europa, c'è ancora questo schifo come personale dell'ufficio immigrazioni, come personale di tutto e in più, non so a chi puntare il dito, dal primo all'ultimo, da un lavorante semplice che prende un stipendio a sopra, sono tutti impauriti, non possono dire. È un stato di mafia questo che gestisce. È un stato di mafia, perché si devono arrivare a un certo obiettivo, devono entrare tot di soldi al mese, secondo me. E questo grande capo, questo grande mafioso che gestisce sta baracca, forse vuole arrivare così al suo guadagno, sulle nostre sangue.